te ne porto uno scarafaggione. No, esatto. Ho ben presente il maialone perché ogni volta che mi fermo agli autogrill vado lì a schiacciarlo, no? I topi ballano. Eccola là. Quando il gatto non c'è, il gatto befera, chiamiamolo così. Qua ti volevo, cara mia, però ti posso dire... E qua cade l'asino. No, non sei un asinello, dai. Sono anche uno sgranocchiatore. Mi piace, Antonio. Un topolone. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Vedo nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Per ora è stata un'estate davvero strana, con un'alternanza di sole, vento, piogge, temperature stabili. Insomma, l'estate l'abbiamo vista di sfuggita, ma i nostri occhi ne hanno già sentito gli effetti. Non è difficile scoprirlo, gli occhi si arrossano, lacrimano e diventano più sensibili, tutto normale. La luce del sole, che è pronta a regalarci i suoi benefici indispensabili per mantenerci in salute, può mettere a rischio la salute e il benessere dei nostri occhi, come succede per la nostra pelle. Niente di nuovo, lo sappiamo da tempo, e per questo ogni anno arriva puntuale la raccomandazione degli oculisti, che alla stessa stregua dei dermatologi ci invitano a riparare i nostri occhi dal sole, perché è ormai provato che la mancanza di protezione produce danni sia nel breve che nel lungo periodo. Allora, l'invito è questo: se volete vederci chiaro, restate, perché in studio con noi è tornato a trovarci il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. La pelle reagisce all'aggressione dei raggi solari producendo melanina, che ci regala questa abbronzatura che tutti noi vogliamo guadagnarci perché ci rende bella, però è un meccanismo di protezione. Gli occhi però non hanno filtri, dottor Scialdone. Sì, non hanno hanno e non hanno, nel senso che filtrano... Non hanno la melanina sicuramente. No, ma filtrano quello che sarebbe meglio che non filtrassero, nel senso che la luce ovviamente passa, ma con la luce, con tutto lo spettro luminoso e tutte le lunghezze d'onda e i colori, passano anche raggi che non servono per la vista ma sono dannosi. Sì. Sono principalmente gli ultravioletti e la luce blu, che si ferma soprattutto sul cristallino. Ecco, questa luce blu è una luce molto subdola. Sì, è una luce subdola, primo perché gli ultravioletti non li vediamo, e secondo perché fa soprattutto un effetto di riflesso e di abbagliamento e va a stimolare, a produrre ossidazione della retina. I famosi radicali liberi, no? Sì, esattamente. Che rovinano la nostra retina. Esattamente, la mettono sotto stress. In difficoltà. Esatto. E prima della retina il cristallino. E prima della retina il cristallino, che assorbe tutto quello che è sotto i 400 nanometri, cioè il blu scuro, eccetera, eccetera, viene assorbito dal cristallino e ossida anche quello. Forse i nostri occhi hanno già sentito gli effetti di questa estate, che non è stata sinora un'estate particolarmente luminosa. No. Allora, però i raggi ci sono, raggi ci sono. E la luce c'è. Ma la e luce lavora. È vita anche, la però, luce lo dice a me. Io guardi, appena cambia la stagione già mi adoratrice sento un'altra del sole. Allora, per non saperne leggere né scrivere, diteci se l'estate ha già portato qualche fastidio ai vostri occhi. Ti dà fastidio la luce? Quando in particolare? Alla fine di una giornata passata all'aria aperta, noti che i tuoi occhi sono arrossati? Il rossore si accompagna a dolore, bruciore? Ti sembra di vedere meno bene? Hai l'impressione di avere poche lacrime? L'occhio secco? Potete iniziare naturalmente a chiamarci, noi siamo qua, 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666 e come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Oggi parliamo degli effetti della luce sui nostri occhi per imparare a proteggerli, ma chiamateci anche per raccontarci come rispondono i vostri occhi alla luce e come rispondono anche al buio. Dottor Cialdone, gli effetti, abbiamo anticipato, o meglio i danni, possono essere a breve, medio e lungo termine e accumularsi di anno in anno. Mantenendo un po' il nostro parallelo con la pelle, l'occhio rosso dopo una giornata di sole, vento, corrisponde un po' alla pelle color gambero che alcuni di noi sfoggiano, ahimè, dopo una giornata di sole. Sì, sicuramente. Teniamo presente poi che oltre agli ultravioletti c'è anche il calore, che quindi asciuga, secca. L'occhio secco asciuga la cornea, asciuga la superficie dell'occhio e c'è anche un effetto di disidratazione del vitreo, cioè l'interno dell'occhio, stando molto al sole, si riscalda come tutto il resto e questo può togliere un po' d'acqua, ecco perché d'estate c'è la possibilità di avere maggiori fastidi con le moschine, con quelle alterazioni che ci danno, no? Fastidio. Non basta dire va bene, intanto sto all'ombra, mi metto all'ombra, perché un po' sì. Comunque. E poi ci dobbiamo reidratare, quindi acqua, succhi di frutta, che va bene non solo per la pelle ma anche per l'occhio e per il vitreo. Allora vogliamo quindi dare un consiglio per gli ascoltatori che si ritrovano in questi giorni con occhi particolarmente rossi che bruciano. È un classico, no? L'otite, certo. In estate anche certo. E la congiuntivite, esatto. Quindi oculisti, dermatologi e otorini, in estate lavorate parecchio anche per delle situazioni, per dei disturbi che durano pochi giorni, ma che se non diagnosticati con precisione e trattati in modo adeguato si trascinano per giorni. Sì. La congiuntivite è una di queste. La congiuntivite è una di queste, tenendo presente anche che le nostre piscine non sono luoghi accoglienti dal punto di vista microbiologico, per quanti disinfettanti ci buttino dentro, e quindi una bella sciacquata e soprattutto gli occhialini da quelli da nuoto, sì, da nuotatore, che producono una protezione duratura ed efficace anche se mi entra un po' d'acqua, però il contatto, il tempo di contatto si riduce, quindi questo è un consiglio. Poi sciacquarsi sempre gli occhi, non solo tutta la pelle ma anche bene la faccia e il viso, in modo da togliere tutti i residui dei microrganismi che si depositano in superficie. Attenzione soprattutto a quelli che hanno le lenti a contatto. Parleremo di loro, anzi iniziamo già a parlare, perché molte persone proprio in estate passano dagli occhiali alle lenti a contatto. Esatto. Sono più comode. Esatto, sicuramente sì. D'estate però c'è anche il massimo del picco di infezioni da lenti a contatto, facilitate da stili di vita diversi, si sta svegli anche tardi, fino a tardi, gli occhi sono stressati perché dopo tutto il giorno di mare, invece che toglierci le lenti, riusciamo, anche andiamo per, a cena, ecco, andiamo anche fuori. Per chi rimane in città. Anche per chi rimane in città, ma di solito gli ambienti marini sono microbiologicamente un po' peggio. In città abbiamo sempre casa, ci togliamo, ci facciamo, al mare esageriamo, facciamo cose un po' fuori. Mi dica le tre cose che chi porta le lenti a contatto non deve fare. Questo lo sanno tutti i portatori. Uno, mai l'acqua corrente. Mi è caduta la lente, mi ha fatto, piuttosto la butto via, ma mai l'acqua corrente perché è piena di batteri pericolosissime. Seconda cosa, appena... No, vedevo, cercavo di capire se Carmelo Lauricella lo sapeva o no. Lo sapevi, Carmelo? Ma... Ah, so. Bene, bravo. Buon punteggio. Poi la seconda è pronta a darcela a Carmelo. La seconda regola? La seconda regola è: ho l'occhio rosso, mi dà fastidio, sento un po' di punture, eccetera, mi sembra di vedere forse un po' annebbiato, non me ne frego, ma tolgo la lente adesso. Perché se per caso una piccola abrasione mi ha fatto entrare un po' di batteri, da lì può svilupparsi un ascesso. La terza consiglio è: non comprate i liquidi di un litro per volta perché si inquinano, durano troppo tempo. Comprate confezioni piccole, usatele pochi giorni e buttatele via. Basta, e così partiamo. E così, devo se vuole dire. Vado avanti, però. No, ma queste sono proprio le regole base. Sì, le regole base di igiene. Ecco, possiamo partire tranquilli. Poi non dobbiamo portare le lenti a contatto per un... Per oltre un tempo ragionevole. Diciamo che se le ho messe la mattina e sono stato al mare, la sera, quando mi faccio la doccia, almeno un'ora, due ore me le devo togliere. Poi riesco, me le rimetto. Questo implica spendere un po' di più, perché già... Immagino quello che stanno pensando quelli che portano le lenti usa e getta. Ma così le butto via, mi costano. Ho capito, ma la sicurezza dell'occhio è più importante, forse. Meglio in lenti di 30-40 centesimi. Meglio in lenti che in colliri e in farmaci. Meglio che in oculisti. Meglio, meglio in lenti che in oculisti. 800 24 00 24. Franco ci chiama da Ragusa. Parleremo anche dopo il mercati, anche della scelta. Franco se n'è andato, è caduto. Parleremo proprio della scelta degli occhiali da sole, prima di farlo, proprio per far capire ai nostri ascoltatori che è importante proteggere gli occhi, e lo possiamo fare in modo semplice scegliendo gli occhiali giusti, senza risparmiare, perché è importante anche ricordare, dottor Cialdone, lei mi può aiutare a farlo, che quando noi indossiamo degli occhiali da sole che non hanno le caratteristiche che devono avere per proteggere i nostri occhi, noi rischiamo di fare anche un danno ai nostri occhi, cioè non è che pazienza, dai, se vedo bene mi schermano un po' e quindi mi tolgo il fastidio della luce, ma proprio questa lente più scura dilata la pupilla, dottor Cialdone, sì. Quindi è come se noi facessimo un'indigestione di raggi. Indigestione di raggi e anche... Lo spiegate in modo un po' così, però va bene, è chiaro, vero? E ci affatichiamo. Certo. Perché se non vedo bello, chiaro e nitido, il cervello e anche tutti i muscoli perioculari si sforzano, i muscoli palpebrali, e finisce che sono più stanco di prima. Abbiamo detto che la luce può accelerare l'insorgenza di alcune malattie, può danneggiare o mettere in difficoltà, stressare, come ha sottolineato lei, alcune strutture dell'occhio. Noi oggi però vogliamo anche dire agli ascoltatori che hanno delle patologie oculari di mettersi in contatto con noi, perché ci sono magari delle avvertenze, dei consigli che il dottor Cialdone potrà dare per avere un'ulteriore protezione. Volentieri. Andiamo ad Edoardo che ci chiama da Vicenza all'800240024. Edoardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Niente, io chiamavo per chiedere questo, se c'è una correlazione al fatto che chi ha gli occhi chiari d'estate possa soffrire di più i raggi solari. Nel caso mio io ho gli occhi chiari, ho degli occhi verdi, verde chiaro, quasi azzurri. Magnifici, no. Diciamo pure la verità, Edoardo, le faranno i complimenti per questo colore, azzurro, sì, tendente al verde. È uno dei complimenti che mi fanno maggiormente, però non so se sia legato al mio avanzare d'età, ho 39 anni, sono ancora relativamente giovane, però rispetto al passato io d'estate non riesco quasi a girare senza gli occhiali da sole, perché diversamente faccio veramente fatica, l'irradiazione solare mi dà quasi fastidio. E nota che questo fastidio è aumentato negli anni. Esatto, volevo capire intanto se può essere un discorso di età piuttosto che comunque il fatto di avere gli occhi chiari per me sia comunque più difficile rispetto a... Abbiamo capito, dottor Cialdone, se dice che ha 39 anni un problema di età, io non la invito più. No, anche perché mi farei male. Bravo. Da solo. Ecco, no, mettiamoci subito d'accordo. No, per carità, è giovanissimo. L'effetto è dovuto a due cose. Una l'ha detta già il nostro ascoltatore, che è la chiarezza, che vuol dire in pratica ho poca melanina, quindi ho poco colorante che mi assorbe la luce spuria all'interno dell'occhio, quindi la luce, come dire, rimbalza come dentro un biliardo all'interno e quindi mi dà abbagliamento. Secondo, le alterazioni del vitreo. Passando i 30 anni cominciano ad aumentare le alterazioni di questo gel che abbiamo dentro l'occhio, e il gel fa, come si dice, sparare la luce all'interno, la diffonde, la diffrange, e quindi ecco che peggiora la sintomatologia di tutte le persone sensibili. Allora, il nostro ascoltatore ci ha raccontato questa sensazione di fastidio che avverte con la luce. Voi raccontateci anche come vedete la notte, perché molte persone di notte vedono con difficoltà, sì, e pensano che sia il buio. È vero, senza luce uno vede peggio, ma non è sempre così. 800 24 00 24, abbiamo Ivano che ci chiama da Modena. Buongiorno Ivano. Buongiorno a voi tutti. Io veramente ho un problema di occhi secchi al mattino, magari l'oculista mi può dire qualcosa. Ma la domanda che volevo fare è un'altra. Vedo in questi giorni pubblicizzato un prodotto da spruzzare sulle palpebre chiuse e pare che dovrebbe portare sollievo agli occhi. Ma mi chiedevo, le palpebre chiuse sono proprio pulite? Voglio dire, non c'è smog, batteri, sudore, non è che fa più male che bene? Allora, due domande per il nostro Ivano da Modena. Questo spray ad occhi sì. chiusi e poi l'occhio secco del mattino, che è un disturbo molto frequente. Certo. Non è solo non è stagionale, perché ci sono persone che con questo problema si confrontano certo. tutto l'anno, ma noi siamo qua per fare una sorta di revisione per capire un po' quali sono le cause di questi disagi. Partiamo dal collirio, che è la cosa dallo spray. Lo spray è un modo di darsi il collirio un po' più comodo, sì. non devo andare in bagno, non devo aprire la boccetta, eccetera, né più né meno come lo spray solare o cose del genere. Quindi la pulizia o non è una questione che prescinde dal collirio, quindi non è che il collirio spruzzandolo mi faccia andare lo sporco all'interno dell'occhio, diciamo che tutto è un pensiero, come dire, corretto da un punto di vista conseguenziale, ma poi nella pratica è poco effettivamente così. L'altra, quindi, lo può usare tranquillamente, ha il vantaggio soprattutto del modo di uso il collirio. L'altra cosa è l'occhio secco che deriva sia da un atteggiamento, come dire, genetico della persona, sia dalla possibilità di avere delle allergie o della reattività all'ambiente maggiore di quanto sia per la massa delle persone, che si traduce soprattutto per persone che lavorano tanto con computer o da vicino in un maggiore affaticamento e quindi in un aumento della irritazione superficiale. Quindi la sera, poi quando torniamo a casa, spesso magari non ci diamo una sciacquata, non puliamo, non togliamo dalla superficie tutti gli irritanti, cose, piccole cose che potrebbero aiutare, magari con un po' di collirio. Durante la notte l'occhio chiuso si secca, perché normalmente gli occhi si seccano di notte, ma se sono già predisposto avrò un effetto peggiore rispetto agli altri. Sì, viaggiare. In estate si viaggia di più e molti nodi vengono al pettine, aloni intorno alle luci, abbagliamento, lacrimazione, stanchezza, mal di testa. Questi sono alcuni dei problemi con cui ci confrontiamo quando stressiamo la nostra vista, e la guida è sicuramente un bel test. E a proposito di guida, prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. E se prima di partire per un viaggio, per una vacanza che vi auguriamo naturalmente sia ricca di sole, amicizia, armonia, è importante però vederci chiaro. Noi non possiamo dimenticarci che è anche molto importante essere sicuri che la nostra auto sia in regola. Le quattro ruote restano infatti il mezzo preferito degli italiani per raggiungere i luoghi di vacanza. Pensate che si prevede che la macchina verrà utilizzata quest'estate dal 63% dei turisti. Sarà uno di questi, dottor Cialdone? Sicuramente no. Perché prendo l'aereo. Allora, il dottor Cialdone non è tra questi, voi lo siete, allora raccontatecelo all'800240024 e diteci dove andrete, quanti passeggeri sarete e se vi siete presi un po' cura della vostra auto prima di intraprendere un viaggio. Soprattutto, i documenti sono tutti in regola: patente, libretto, assicurazione, revisione. 800240024, ne parleremo a partire dalle 11:50 nella seconda parte della trasmissione. Ma lei la macchina ce l'ha, dottor Cialdone? Ci mancherebbe altro. Allora altro. Questi consigli serviranno anche a lei. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella. Saluto Emanuele che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. La sento prima dei mercati. Bene. Senta, io volevo fare una domanda al dottore. Sì. Praticamente io guido molto durante la giornata e verso sera, soprattutto quando c'è molto sole durante il giorno, avviso un leggero mal di testa e occhi che comincio a sentirli pesanti così. Volevo sapere se c'era magari qualche indicazione per l'uso di occhiali o magari qualche metodo per evitare. Emanuele, ma porti occhiali già perché è un difetto di vista o no? No, no, io ho una vista da 10 decimi, quindi... Ok, allora, ti do due piccoli consigli. Uno, non dirigere soprattutto d'estate l'aria calda verso l'alto, perché si riverbera dal lunotto, davanti, dal vetro, e ti viene negli occhi e quindi li asciuga di più, e tutto il giorno la cosa può essere fastidiosa. Seconda cosa, compra un paio di occhiali più che da sole, si chiamano degradanti, cioè più scuri sopra e più chiari sotto, permettono di togliere gli abbagliamenti e i riflessi esterni senza togliere la visibilità. Fantastico, così Emanuele l'abbiamo sistemato. E allora, avete un difetto visivo? Ci vedete benissimo come Emanuele? Siete grassi, siete magri, andrete in vacanza, resterete in città, giovani, ricchi, poveri, innamorati, singolo, felicemente sposati? Il sole per fortuna bacia tutti, belli e brutti. Proteggiamo anche allora i nostri occhi dai suoi baci appassionati con le lenti giuste. E se gli occhiali ce li avete già, restate con noi perché li testeremo in diretta subito dopo i mercati. Cuore e denari. Siamo tornati veloci veloci, puntata ricca, la luce, gli effetti che ha sui nostri occhi, impareremo a proteggerli, ma oggi è anche un'occasione per raccontare come i nostri occhi reagiscono all'estate, alla luce estiva, quando insomma gli occhi guardano in faccia l'estate. Ma oggi vorremmo anche darvi l'opportunità per raccontarci come pensate di organizzare le vostre vacanze, i vostri viaggi. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, perché vogliamo che tutto sia in regola, quindi dagli occhiali da sole alla patente, al collirio che mi porto dietro in viaggio, al collirio. Ma abbiamo parlato di luce, ma dottor Cialdone, io vorrei parlare anche di buio, perché è il buio che ci mette in difficoltà, e lo fa sia per le persone che magari hanno problemi alla vista, sia per le persone che problemi alla vista non hanno. Sì, sicuramente. Beh, è abbastanza frequente, devo dire, che persone che vanno bene alla luce, poi al buio o la sera dicono di avere un peggioramento significativo della capacità visiva. Sì. Sono soprattutto quelle persone che hanno una tendenza ad avere le pupille grandi, perché la pupilla grande che la nonna di Cappuccetto non c'entrava. No. Di Cappuccetto non c'entrava, anche se nei rapporti di coppia talora sì. E le pupille grandi cosa fanno? Il contrario di quello che è la stessa cosa che succede per una macchina fotografica. Certo. Quando si allarga passa tanta luce, ma non è focalizzata, è luce un po' dispersa, è luce che diciamo viene trasmessa e amplificata in senso negativo da tutte le anomalie della conformazione dei nostri occhi. Per cui più si allarga la pupilla, più la qualità dell'immagine peggiora. Ed ecco perché in realtà non è che non ci vedono, ma diminuiscono i contrasti delle immagini e diventa tutto un po' grigio, tutto un po' indistinto. Non è molto spesso una malattia, ma è un modo di reagire dell'occhio. Quindi uno controllare che, questo io sto parlando delle persone giovani, ovviamente se parlo dell'anziano posso presupporre che abbia anche altri problemi, la mitica cataratta piuttosto che altre cose, ma il giovane che ha questo tipo di effetto non deve spaventarsi, perché è un effetto abbastanza frequente, quindi cercare di migliorare gli occhiali, mettere qualcosa di polarizzante, antiabbagliamento soprattutto per le luci notturne alla guida, e il gioco è fatto. Abbiamo in linea con noi Pietro, che ci chiama dalla provincia di Caserta. Buongiorno Pietro. Buongiorno. Senta, volevo fare una domanda al professore. Siccome durante la giornata porto gli occhiali progressivi e non mi danno fastidio, però la sera, quando incomincio a guardare la televisione, dopo una mezz'oretta mi cominciano a bruciare gli occhi e mi pungono. Mi pungono. E devo evitare di guardare la televisione. Poi vado a dormire, la mattina mi sveglio con gli occhi rossi. Probabilmente credo che saranno un po' da controllare quegli occhiali lì, perché probabilmente hanno qualche piccolo difetto che lei durante il giorno tollera. La sera, quando si mette sul divano, la pupilla, come dicevo prima, si dilata un po', è in posizione un po' critica, magari sta anche un po' semi sdraiato sul divano. E in quel caso il punto di fuoco del progressivo non corrisponde più al centro dell'occhiale e alla pupilla. Quindi chi ha le lenti progressive deve stare seduto per bene. Sicuramente. L'unico difetto del progressivo è non posso leggere da sdraiato. Non potete stravaccarvi sul divano. Esatto, se no mi prendo un altro occhiale. Quindi la progressiva vuole una persona, no? Che una persona retta. 800 24 00 24. Voglio leggere alcuni messaggi. Mio figlio, 24 anni, tiene le lenti mensili per pigrizia, scrive penso la mamma, praticamente 24 ore su 24, nonostante i nostri mugugni. Che conseguenze può avere? Beh, occhio rosso, fastidioso, la possibilità di abrasioni corneali, qualche infezione. Fermiamoci poi qua. Mi fermo, sì. Quindi forse più che un mugugno, cosa bisognerebbe dire? Bisognerebbe... Basta, come si fa a lì. Dire a un ragazzo? Allora, vorrei chiedere se crea problemi tenere gli occhi aperti quando si va sott'acqua, sia al mare che in piscina. E ce lo chiede Emanuele da Recanati, perché lui non ha nessun disturbo. Si immerge e ha gli occhioni belli spalancati. Provoca qualcosa? No, deve sciacquarsi bene quando esce, basta. Gradirei conoscere, ci scrive Gianna da Brindisi, il ruolo e l'utilità degli integratori, in special modo nei miopi. L'integratore serve soprattutto, gli integratori servono soprattutto come antiossidanti, come fornitori di sostanze protettive, perché la retina è un tessuto ad altissimo metabolismo, quindi ha dei ricambi e un consumo di energia enorme, e quindi tutto ciò che la stressa produce poi delle anomalie piccole, ma che nel tempo si accumulano. Quindi gli integratori hanno questa funzione, non sono curativi ma di supporto. Adesso ci sono anche per la cornea, fra l'altro. Dai. Il collirio, certo, ci sono dei colliri con gli aminoacidi, per esempio. Quindi le possibilità le abbiamo. Nulla sostituisce 200 grammi di spinaci, che hanno una quantità dentro di pigmento protettivo antiossidante incredibile. Quindi 200 grammi di spinaci al giorno sono come delle anche degli occhiali da sole naturali. Sì. Perché proteggono anche i nostri occhi. È vero. Un po' come faceva Braccio di Ferro, non vengono i muscoli, ma vengono gli occhi belli. E cosa volete di più? E fra l'altro, scusi, c'è una quantità di protettivi anche nella paprika. Quindi adesso è estate, quindi ci facciamo spinaci, i piatti. Quindi spinaci, paprika. Paprika e pepe. E pepe. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Non basta che siano belli, ci regalino carisma e mistero, gli occhiali da sole devono soprattutto proteggere i nostri occhi dalle radiazioni. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Francesco Loperfido, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Responsabile del servizio di oftalmologia generale a San Raffaele e oftalmologo della Commissione Vista. Dottor Loperfido, a volte si pensa che stare all'ombra per proteggere gli occhi possa bastare, però ahimè questo non funziona, perché i raggi UV vengono riflessi dal mare, dalla sabbia, da altre superfici. Ce ne sono tanti anche quando il tempo è nuvoloso, vero dottore? Giustissimo, infatti la fotofobia non si ha solamente con il sole a luce piena, ma anche con il cielo nuvoloso. Anzi, in estate il cielo nuvoloso è ancora più fastidioso, e questo impone l'occhiale da sole anche in queste circostanze. Allora, fondamentali, ma devono essere anche quelli giusti, devono avere determinati requisiti. È un po' come le creme solari, anche gli occhiali devono avere un filtro per gli UV. Ma dottor Loperfido, sicuramente un paio di occhiali da sole ce li abbiamo tutti, magari li abbiamo comprato l'anno scorso, magari non abbiamo seguito tutte le attenzioni che voi oculisti da tempo suggerite, e con quell'occhiale da sole ci troviamo bene, perché comprarne un altro, mi verrebbe da dire. Assolutamente, non buttiamo i soldi, ma cerchiamo di capire insieme al dottor Loperfido se l'occhiale che abbiamo già in borsa, quello che abbiamo a casa, quello che magari stiamo già indossando, è un occhiale fatto per bene, che ci protegge. Come possiamo fare? Io ho promesso ai nostri ascoltatori che lei ci avrebbe fatto una sorta di test per il nostro vecchio paio di occhiali da sole. Beh, sì, sicuramente la prima cosa è questo vecchio paio di occhiali da sole dove è stato comprato, e quello molte volte rientra nei ricordi, nei meandri, quindi è molto difficile capire dove e come. Allora, prendendo questo vecchio occhiale da sole, noi lo possiamo mettere davanti ai nostri occhi, tenendolo chiaramente in mano e facendo fare un movimento rotatorio alla lente davanti ai nostri occhi e fissando un'immagine. Se l'immagine che fissiamo viene ondulata o lievemente distorta, vuol dire che quella lente ha delle aberrazioni, e quindi una lente che ha delle aberrazioni non è otticamente pura, e questo è già un presupposto per cui un occhiale può essere eliminato. Poi ci sono alcune lenti che vengono colorate, quindi bisogna anche capire il tipo di colorazione, perché bisogna abbattere il vecchio concetto: più la lente è scura, più mi protegge l'occhio, e la capacità intrinseca della lente nell'abbattere una certa quantità di UV, quindi di ultravioletto, che ci mette in sicurezza per i nostri occhi. E questo è il primo step. Il secondo, metta che questo occhiale che abbiamo nel cassetto, che vogliamo comprare, sia una lente polarizzata, che va benissimo se siamo in vela, ma se siamo in macchina, alcune lenti polarizzate, perché sono state ottimizzate, possono far comparire macchie e macchie davanti ai nostri vetri, perché mette in evidenza tutto lo sporco, le macchie d'olio, e quindi molto spesso la trasparenza del parabrezza viene meno. Quindi anche questo, porre il vecchio occhiale davanti ai nostri occhi in auto, ci dà l'impressione di come noi vediamo. Cuore e denari. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! Allora, per chi invece gli occhiali da sole non li ha, deve comprarne un altro paio, vuole comprarlo un altro paio. Tra l'altro, dottor Lo Perfido, quanto spendiamo? Sto parlando di un paio di occhiali da sole fatto bene, senza marchi di moda, una cosa giusta. Ma io direi che potremmo dare questi 80 euro di Renzi direttamente all'ottico, perché con 80 euro si può comprare un paio di occhiali da sole, cioè con una lente otticamente pura. Chiaramente poi si tende a salire in base ai marchi e in base anche poi alla firma, però fondamentalmente con da 80 euro in su si trova un ottimo paio di occhiali da sole. Il discorso molto importante quando si va dall'ottico è definire che cosa voglio e perché lo voglio, perché è ben diverso l'occhiale che può essere dato per la guida col sole, ben diverso è l'occhiale da montagna, ben diverso è l'occhiale del mare, quindi condizioni diverse. Oppure se faccio un viaggio in terre molto calde, certo, io ho bisogno di un occhiale magari con una protezione estremamente alta, e sono le famose lenti alla melanina. Quindi voglio dire, ogni occhio, in base a dove si trova, può essere protetto diversamente, e questa è proprio la finalità anche di un'app che abbiamo fatto insieme alla Commissione Difesa Vista, che è proprio Sole Amico, quello di dare, a secondo dove si è e a secondo il proprio fenotipo, il migliore occhiale da sole per ottimizzare proprio la protezione dell'occhio. Rapidamente, dottor Lo Perfido, venga con me a comprare gli occhiali. Io mi trovo, voi insistete, non si comprano sulle bancarelle perché non hanno le garanzie, si va da un ottico in centri in cui sono venduti gli occhiali. Io che cosa devo guardare? Il marchio? Innanzitutto il marchio, che siano marchiati c'è, molte lenti hanno anche espressa la qualità dell'UV, quindi dell'ultravioletto che abbatto, sì. Il grado di resistenza della lente, perché ci sono sia quelle organiche che quelle in cristallo, ottime quelle in cristallo, ma ormai alla guida, proprio per gli airbag, è sempre consigliabile avere la lente infrangibile in plastica, che oltretutto è molto più leggera. Mi raccomando. Quindi questo sicuramente. Poi l'altra cosa importante, soprattutto se abbiamo un difetto visivo, di fare in modo che la lente, il colore della lente sia coerente con il nostro difetto visivo, quindi marrone per i miopi e sul verde, verde grigio per gli ipermetropi. Questo però l'ottico è in grado di consigliarcelo. Sì, ma molto spesso ci lasciamo prendere dagli entusiasmi della moda con lenti di colore molto strano, invece di seguire quelli che sono i canoni della correttezza nella prescrizione. Francesco, il fotocromatico? Il fotocromatico è ottima come lente frequente, soprattutto nelle persone che io definisco dalla, un po' della terza età, cioè non mi va bene per l'altissima montagna, però è una lente che si adegua a delle condizioni diverse di luce, soprattutto per esempio per chi è stato operato di cataratta, quindi che ha una fotofobia maggiore perché non è abituato a tanta luce, quindi avere una lente che diventa scura in base all'esigenza e in base alla quantità di UV può essere quanto mai opportuno. Invece lascerei ai giovani di una lente che sia da sole quando sia da sole, e lasciare poi alla elasticità del cristallino e soprattutto dell'iride il resto del gioco. Allora, parliamo anche dei bambini, perché gli occhiali da sole ai bambini sono difficili da mettere, da far tenere, però gli occhi vanno protetti anche quando sono giovani e piccoli. Dottor Cialdone. Sicuramente, perché il cristallino è puro, quindi è completamente trasparente, quindi assorbe, lascia passare completamente tutto sulla retina. Quindi occhialini da sole che devono avere le caratteristiche. L'esempio dei genitori anche in questo caso per gli occhiali da sole serve. Allora, io ho due oculisti e voglio fare a voi una domanda che mi sta mandando un ascoltatore. Ha la malattia di Skardar, porto agli occhiali, è stanco dalla luce a livello psicofisico sfinito, e chiede anche se ci sono delle novità. Francesco, vuoi rispondere tu? Ma allora, per quanto riguarda in questa condizione, la fotofobia può essere estremamente elevata, non ci sono dubbi. Io in queste condizioni più estreme di fotofobia, la lente che veramente consiglio al 100% è quella della melanina. Ha una capacità di abbattere, perché finora abbiamo parlato solo di UV, sì, ma non dimentichiamoci della luce blu. Ne abbiamo parlato con il dottor Cialdone, certo, che ci ha detto che è subdola, intrigante, dannosa, però, ma la malattia di Stargardt ha delle novità. Esatto, se questa malattia, non in particolare una malattia genetica, però se questa persona ha una malattia di Stargardt, ha un problema con la vista centrale, quindi il Francesco, lo perfido, potrebbe suggerire un tipo particolare di colorazione che gli aumenta il contrasto. Infatti. Ok, allora, questo perché volevo dare voce anche a questo ascoltatore che mi ha scritto ripetutamente, ma io volevo proprio incastrare due oculisti per fare un consulto radiofonico. Grazie allora al dottor Lo Perfido per essere stato con noi. Grazie a voi, gentilissimi. Grazie al dottor Cialdone che ci ha accompagnato in questa puntata dedicata tutta alla prevenzione, ma anche ai suggerimenti pratici come quelli che vorremmo dare tra poco. Io vado al mare, non mi aspettare, mi sono perso. L'aria dell'estate 2014 inizia finalmente, io dico finalmente, a farsi sentire, e a Cuore Denari vogliamo assicurarci che siete pronti a partire per una vacanza serena e sicura. Lo dico pensando in modo particolare a chi viaggerà in automobile. Il dottor Cialdone ci ha già detto che non lo farà, però saranno in tanti, il 63% del totale dei vacanzieri italiani. Sappiamo quanto è importante per un automobilista vederci bene, avere gli occhi riposati, la giusta correzione se porta delle lenti e naturalmente indossare anche gli occhiali da sole giuste, ma non a caso la nostra vista è ciò che viene principalmente verificata quando facciamo la visita per rinnovare la patente. Ma voi sapete quando scade la vostra? Noi oggi rinnoviamo la patente, ma non solo, a Cuore Denari con il nostro Silvio Scotti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Esperto del Sole 24 Ore e del codice della strada. Intanto sono molto contenta che lei sia in linea con noi, mi dà una grande tranquillità. C'è ancora il dottor Cialdone che sta magari con noi in compagnia ancora qualche minuto. Perché... Come potrei mancare? Allora, noi oggi con il dottor Scotti faremo il punto di tutto ciò che c'è da controllare, in particolare dal punto di vista dei documenti, per avere un'auto in regola, proprio in regola per le vacanze, ma anche per gli spostamenti. Perché insomma non è che la macchina la usiamo solo per andare in vacanza, magari per andare a trovare un amico che abita a 20 km dal nostro luogo di residenza. Allora, iniziamo proprio dalla patente, che è un documento molto legato alla nostra salute. C'è una direttiva europea approvata proprio in questi giorni che parla di controlli ancora più stringenti. Silvio Scotti. Sì, esatto. Si tratta di una direttiva approvata il 1 luglio, modifica una direttiva già in vigore nello Stato italiano, e praticamente questa direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere tutta una serie di domande e poi di visite per coloro che soffrono di sindrome delle apnee ostruttive da sonno. Sì. E questa direttiva però in realtà non entrerà immediatamente in vigore, perché l'obbligo per lo Stato italiano di normare all'interno questa particolare situazione, questa particolare patologia, scatterà al 31 dicembre 2015, quindi entro il 31 dicembre 2015 dovremo adeguare la nostra legislazione. Allora, la visita, quindi ci saranno ulteriori test oltre a quelli che si fanno quando andiamo a rinnovare la patente, ci fanno il dottor Cialdone, lei è un oculista, ci misurano la vista. Sì. E dal sì, 2011 sono cambiate anche un po' le regole, vero Silvio Scotti? Sì, sono cambiate le regole, diciamo che sulla patente vengono effettuati sempre maggiori controlli, perché si è notato come tutta una serie di patologie possono influire in maniera negativa sulla capacità di guida e sono anche fonti di notevoli incidenti, quindi ricordiamo che si tratta di un'attività pericolosa e quindi l'attenzione deve essere sempre massima e ovviamente deve essere supportata da idonee condizioni fisiche. Un ascoltatore mi segnala al 349-238-6666 che la visita oculistica al controllo della patente è troppo frettolosa. Vorrei incrociare le esperienze del dottor Cialdone come oculista e di Silvio Scotti. Sì, talora può succedere come in tutte le cose. Io visite, diciamo, specifiche sono attività che fanno spesso medici, certo, dedicati a questo, eccetera. Invece, se mi permette, volevo chiedere una cosa che secondo me interessa molti ascoltatori, cioè quello delle patenti con limitazioni d'uso temporali, cioè la può usare la macchina di giorno ma non di notte, perché ci vedo poco, non ho una vista che non è perfetta, ma non talmente poco che devo lasciarla. Quindi c'è una certa, come dire, elasticità e decisione lasciata alla commissione. Silvio Scotti? Sì, certamente. Teniamo presente che però parliamo sempre di particolari patologie per quanto riguarda la commissione, mentre il rinnovo per le persone che si trovano in stato di salute regolare, diciamo, avviene soltanto con una visita da un medico singolo che valuta soprattutto la capacità visiva. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia esperienza, devo dire che l'ultima volta che l'ho rinnovata la visita è stata meticolosa. Vede? Proprio a lei, Silvio Scotti, molto meticolosa. Cuore e denari. Senti, tesoro, allora vediamo un po'. Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Eh? Sì. Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì. Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Sì. Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Sì. Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino? Sì. Perfetto. Senti, un'ultimissima cosa, il binocolo l'hai preso? Ma a cosa serve il binocolo? Come che serve? C'è tutto il tratto appenninico da Bologna a Firenze che paesaggisticamente è una favola. Papà, l'ho preso io! Bravo, 8 ad Anton Giulio e 5 alla mamma. E speriamo che la partenza delle vostre vacanze sia un po' diversa, ma la domanda dell'inimitabile Furio, interpretato da Carlo Verdone, scusa, mi viene ancora da ridere, ve la facciamo anche noi. Allora, tutto quello che dovevate fare l'avete fatto? Patente, libretto, revisione, bollo, tutto in regola? Oggi viaggia con noi Silvio Scotti, esperto per il Sole 24 Ore del Codice della Strada, che è sempre con noi in collegamento. Allora, se avete dubbi sul rinnovo della patente, su tutti gli altri documenti da controllare, 800 24 00 24, raccontateci. Ma intanto, Silvio Scotti, ci racconti lei come funziona il rinnovo della patente, ogni quanto va fatto e soprattutto se ci sono delle novità. Bene, dunque, allora diciamo subito che il rinnovo della patente per quanto riguarda le patenti più diffuse, quindi A e B, deve essere fatto ogni 10 anni fino al 50° anno di età, mentre superato il 50° anno di età sono valide per 5 anni. Chi ha superato il 70° anno di età invece sono valide per 3 anni e poi ad 80 anni il rinnovo è solamente per 2 anni. Quindi diciamo che diminuisce progressivamente con l'aumentare dell'età. Questo avviene però dal 50° anno di età in poi. Ma se la patente io la lascio scadere, non me ne accorgo? Ecco, il rischio è veramente serio perché va controllata innanzitutto. Allora, tenete conto che se doveste essere fermati alla guida con la patente scaduta, la sanzione è piuttosto alta, ma è forse il minimo la sanzione pecuniaria, che va da 155 a 624 euro. Ma soprattutto il documento viene ritirato, proprio esiste un formale provvedimento di ritiro, e non viene restituito fino a quando la patente non è stata rinnovata. Oh, mamma mia. Quindi si tratta, sì, si tratta ci tocca, di... però non dobbiamo ridare l'esame, eh? No, questo no, questo no, non bisogna ridare l'esame meno male. In realtà l'accertamento è semplicemente un accertamento di tipo di idoneità fisica alla prosecuzione dell'attività. Questo mi rende più tranquilla, ma andrò subito a controllare la mia patente. Diego da Verona, buongiorno, forse lei l'ha controllata? Sì. Quando sì, scade la sua? Ci devo guardare. Ah, vede che non lo sa neanche lei, fa lo splendido. Allora Diego. Io faccio l'autotrasportatore, perciò devo starci attento a queste cose. No, niente, io avevo sentito prima che parlavate delle nuove regole, del di notte si vede meno, queste cose qua, non ho capito bene. Parlavamo con un oculista, il dottor Scialdone, sì, che adesso abbiamo lasciato tornare in ospedale a lavorare, della difficoltà che molte persone incontrano, soprattutto se hanno problemi alla vista, quando c'è buio. E tante volte non è solamente un problema di buio, ma anche di correzione, magari non adeguata, del proprio difetto visivo. Però io, Diego, se ha delle domande ancora per il dottor Scialdone, io la inviterei a scrivermi, perché io l'oculista non ce l'ho più adesso sotto mano. No, niente, volevo sapere se ci sono delle sanzioni, cioè non so, se uno va a fare la visita e vede che magari di notte ci vede meno, deve portare gli occhiali, cose del genere, influiva sul discorso, non so, sì, patente, cose del certo genere. Che Silvio Scotti, se c'è l'obbligo di guidare con le lenti, se uno non... Certo, si tratta di tutte quelle autorizzazioni modali, perché siamo di fronte alla patente, l'autorizzazione a condurre veicoli a motore, quindi sono autorizzazioni tipo modale, cioè puoi continuare a guidare ma devi portare le lenti, oppure, come prima faceva riferimento il dottor Cialdone, delle limitazioni che sono relative alla guida solamente durante il periodo diurno e non durante il periodo notturno, e altre limitazioni che possono essere di diverso tipo. Proviamo a pensare a chi ha un deficit uditivo, oppure a chi deve rispettare particolari attenzioni. Ne abbiamo parlato prima, per esempio dal 31/12/2015 partirà questo nuovo accertamento che riguarda le sindrome d'apnea notturna. Sì, perché la sonnolenza diurna è ritenuta una delle cause maggiori di incidenti. Sì, sono stati effettuati evidentemente, perché nella direttiva europea si fa riferimento a degli studi e parlano di una certa percentuale di incidenti che avvengono proprio per una sonnolenza diurna. Tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, la, la, la, la, la. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Scotti, Gianni Morandi andava a 100 all'ora per andare a trovare la bimba sua, e a volte l'amore rende un po' scapestrati, ma sappiamo che qualcuno ha l'abitudine, non solo per andare a trovare la fidanzata, ma proprio l'abitudine di andare un pochino più veloce, superare di gran lunga i 100. Cogliamo l'occasione allora per fare una raccomandazione per chi guiderà quest'estate, e non solamente quest'estate. Ecco, sì, l'eccesso di velocità è un problema, sia un problema in caso di sinistro, perché chiaramente le conseguenze aumentano in maniera notevole con l'aumentare della velocità, ma poi anche nel caso si dovesse essere monitorati da autovelox piuttosto che altri apparecchi come il tutor sull'autostrada, ecco, le sanzioni sono piuttosto pesanti. Diciamo che sono sanzioni progressive, si passa da colui che non osserva i limiti di velocità ma non li supera di oltre 10 km orari, allora la sanzione va da 41 a 168 euro. Per poi arrivare fino a chi supera di oltre 60 km orari, dove la sanzione è da 821 a 3287 euro, c'è una sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente da 6 a 12 mesi, e inoltre c'è la perdita di punteggio per quanto riguarda la patente stessa. Quindi conviene rispettare i limiti. Tenuto conto che abbiamo anche una tolleranza, cioè i rilevatori di velocità applicano in maniera automatica una tolleranza di almeno 5 km orari e del 5%, cioè la percentuale e la cifra fissa, diciamo così, che si incontrano. Quindi se io per esempio il limite di 50 orari in città potrò essere sanzionato soltanto a partire da 56 km orari. Mm-hmm. Tra l'altro i limiti di velocità e molte altre regole del codice della strada non sono uguali in tutti gli altri stati, per cui se andiamo in vacanza all'estero direi che è bene dare una controllatina. Sì, diciamo che esistono regole più semplici da apprendere. Per esempio, quando andiamo in altri paesi noi incrociamo il limite di velocità, che è praticamente il segnale uguale per tutte le nazioni, ma per esempio per quanto riguarda la guida in stato d'ebbrezza bisogna informarsi. Ricordiamo che ci sono alcuni stati, come per esempio la Croazia, che applica il limite zero, cioè quindi non si può bere assolutamente alcunché quando si deve guidare. Che mi sembra, a lei Silvio Scotti, una decisione assolutamente corretta. Può essere corretta, ma è decisamente draconiana. Ricordiamoci che una piccola percentuale di alcol, ovviamente piuttosto bassa, 0,1, 0,10 o 0,20, non dovrebbe influire in condizioni normali sull'attività di guida. Tuttavia, ecco, ricordiamoci che è fondamentale rispettare i limiti che i vari stati pongono. Anche noi in Italia abbiamo l'articolo 186 bis che prevede per i neopatentati un limite di zero alla guida. Paolo da Roma, Enrico dalla provincia di Bologna e poi due domande che arrivano da Davide da Venezia al 349-238-6666. Davide si è un po' allargato, ma rispondiamo naturalmente a Davide, a lui e al problema del seggiolino. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Il problema mio è questo qui. Io ho avuto la patente caduta naturalmente al 30 di dicembre 2013. Ho fatto un rinnovo patente a un'autoscuola e mi hanno rilasciato solamente un certificato medico con marca da bollo e un bollettino postale di pagamento della tassa, diciamo, per il rinnovo, dicendo che mi sarebbe arrivato a casa il bollino da applicare sulla patente. A oggi non è arrivato nulla. Non si è visto nulla. Io sto girando con una patente che forse in Italia, se vengo fermato in Italia, viene riconosciuta diciamo il certificato medico e tutto, ma all'estero cosa succederebbe? Lei è in programma, Paolo, di andare all'estero? Sì, sono in programma di andare all'estero. Silvio Scotti. Dunque, qui abbiamo due risposte. La prima è per quanto riguarda la legislazione italiana, quella è una patente valida e quindi deve essere riconosciuta all'estero nei limiti in cui all'estero riconoscono le patenti italiane, quindi dipende anche dai diversi stati. Poi esiste invece un problema di confronto sulla strada con l'agente di polizia stradale, che può trovarsi di fronte ad una situazione che non conosce e quindi tendenzialmente cerca di evitare la prosecuzione della circolazione di una persona che lui, per quanto riguarda la sua conoscenza, non sa se è dotato di patente o meno. Ecco, teniamo comunque conto che se il signore è stato seguito da un'agenzia si deve rivolgere nuovamente all'agenzia, ma comunque esiste, basta cercarlo in internet, un servizio specifico per quanto riguarda questi disguidi che possono accadere. Comunque tecnicamente la patente è valida. Tecnicamente, beh, questa è una buona notizia, ma quanto costa il rinnovo della patente e soprattutto quanto è ipoteticamente il tempo per ricevere questo bollino che a Paolo non è ancora arrivato? Dunque, diciamo che bisogna effettuare due versamenti, uno è di 16 euro e l'altro di 9 se non vado errato, e presentarsi con una fotografia alla ASL per ottenere il rinnovo. La visita non si retribuisce, non è pagata, però teniamo conto che oltre questa procedura magari uno può decidere per la sua tranquillità di farsi seguire da un'autoscuola o comunque da un'agenzia che svolge queste pratiche. Allora a questo punto va ovviamente corrisposta la tariffa. Enrico, buongiorno a lei, ci chiama dalla provincia di Bologna, benvenuto. Buongiorno. Innanzitutto saluto tutti voi e i vostri ospiti. Grazie. La mia domanda è possibile che in una revisione di una patente un medico della Polizia di Stato abbia rinnovato la patente a una persona che ha sempre avuto l'obbligo degli occhiali e che attualmente ha un glaucoma in un occhio conclamato, con un campo visivo praticamente zero, e il rinnovo è stato fatto senza neanche l'obbligo delle lenti. Enrico ci presenta una, ci racconta una storia che anche altri ascoltatori ci raccontano al nostro numero per i messaggi. Dottor Scotti, la responsabilità però è del, chiaramente, del medico. Allora, noi abbiamo a che fare con un medico che è lo specifico incaricato, e quindi in quel caso è un pubblico ufficiale, che attesta tutta una serie di situazioni, in particolare quella della vista, perché la persona che si è presentata possa continuare a guidare. Quindi esiste una certificazione che possiamo definire ufficiale. Poi è anche chiaro che questa certificazione ufficiale possa anche non corrispondere alla realtà di fatto, prima di tutto perché in qualunque attività umana esistono degli errori, e secondo perché magari in quello specifico contesto il medico si è sbagliato. Ecco. Ora però teniamo anche conto che esiste anche una particolare responsabilità da parte del soggetto che va a rinnovare la patente, no? Il quale, interrogato in merito, deve rendere note le sue patologie, ma anche per la sicurezza sia sua sia altrui. Teniamo conto che dietro ci esiste sempre un'attività pericolosa che ha un costo di migliaia di vite annue in Italia. E quindi la responsabilità è anche nostra quando ci rechiamo a rinnovare la patente e quando ci sottoponiamo ad una visita. Insomma, siamo onesti, Silvio, esatto, Scotti? Diciamo la verità. Davide da Venezia, la prima domanda è proprio, lui mi scrive: chiedete a Scotti per favore delle ruote invernali e l'obbligo di cambiarle. E la seconda domanda, sempre di Davide, riguarda un seggiolino dei bambini. Evidentemente Davide ha dei bambini piccoli, e quindi a quale età e in quali condizioni il seggiolino per i bambini non è più obbligatorio? Sì, dunque, allora, per quanto riguarda i bambini, una volta che hanno superato il 1,5 metri di altezza non è più obbligatorio. Per quanto riguarda poi la classe del seggiolino da scegliere, è necessario adeguarlo al peso del bambino. Noi siamo abituati a fare riferimento all'età, ma quello che conta è il peso. Parte da una capsula di sicurezza, da una culla che deve essere posta in posizione contraria al senso di marcia, per poi arrivare al semplice rialzo, sì, no? Cioè quindi il bambino già strutturato, che però ha necessità di essere sollevato rispetto agli altri passeggeri. Esatto. Certo. Dunque, per quanto riguarda l'altra domanda sulle ruote. Esatto, sulle ruote invernali, ecco, qui la questione è abbastanza diversa. Allora, a lei viene da ridere, perché questo è un temone. Bisognerebbe dedicare una puntata intera alle ruote. Esatto, e quindi adesso con la promessa di dedicarci magari una puntata nel momento in cui saranno da sostituire le gomme, darò delle indicazioni di tipo generale. Allora, sì, innanzitutto esistono delle mescole che vanno bene sia per l'estate che per l'inverno, e hanno una specifica dizione proprio sul fianco della ruota. Le gomme hanno una validità che ovviamente dipende anche dalla situazione in cui ci si trova, perché in alcuni casi abbiamo un prolungamento con delle ordinanze della necessità delle gomme invernali, ed è anche chiaro che le gomme invernali aumentano l'aderenza, ma durante l'estate tendono a rilasciare troppa gomma, e quindi anche lì possono dare dei problemi di sicurezza. Mi sembra che, come sempre, lei abbia dato le indicazioni precise, in modo che noi possiamo in qualche modo, no, diventare consapevoli e informati. Avrei ancora tante domande da farle, ma il tempo stringe. Che cosa dobbiamo ricordare? Ad esempio la carta di circolazione e l'assicurazione. Sì, allora, la carta di circolazione, guardate, tenete conto che l'omessa revisione può veramente crearci dei problemi, nel senso che ci rovina le ferie. Dobbiamo controllare quando scade la validità della revisione e procedere di conseguenza, portandola presso un centro che sia autorizzato ad effettuare la revisione. Sì. Allora, teniamo conto che la revisione dobbiamo farla dopo 4 anni per quanto riguarda la prima immatricolazione e successivamente con una cadenza biennale, quindi ogni 2 anni. Sì. E il problema non è la sanzione, che comunque è abbastanza cara perché va da 168 a 674 euro, ma in quel momento la macchina viene sospesa dalla circolazione e può circolare solamente per recarsi presso un centro autorizzato alle revisioni. Certo. Cosa ancora più problematica se capita in autostrada, perché in quel momento la macchina viene fermata e può riprendere la circolazione soltanto dopo aver prenotato la visita di prova. Non voglio pensarci, ma invece voglio pensare, Silvio Scotti, che lei torni presto a trovarci, perché sulla macchina torneremo anche con naturalmente Deborah, che tornerà a proposito lunedì. E quindi Silvio Scotti, a prestissimo, perché mettiamo ancora a punto i controlli della nostra macchina. Grazie a tutti. Grazie a Carmelo Lauricella, che è in regia, alla parte tecnica, che sa tutto sugli occhiali e sulla vista, a Laura Vanossi e a Marco Lombardo. Noi ci sentiamo domani. Grazie.